Ci sono volte in cui mi perdo nella città. Ci sono cose che mi illuminano il cuore. Ci sono storie che colpiscono l'anima. Sono persone che hanno voglia di combattere. Ci sono volte in cui mi perdo nella città. Ci sono cose che mi illuminano il cuore. Ci sono storie che colpiscono l'anima. Sono persone che hanno voglia di combattere. Le vedi le strade, sono più magiche del mare. C'è sempre un orizzonte che non puoi toccare. Le luci brillano anche se lontane, perché le stelle più perdute non smettono di lottare. Tu mi hai insegnato a combattere, stare in piedi, ascoltare i rumori di quest'anima, persa nei suoi misteri. E adesso voglio perdermi tra queste stelle, abbracciare la luce per sentirmi vivo sotto questa pelle. E ora che il mondo crolla, no, io non crollerò. E ora che il vento soffia, io non mi sposterò. E ora che arriva il freddo, io non mi coprirò. Voglio tenere gli occhi aperti fino in fondo, perché il tuo cuore mi ha insegnato a combattere. Perché non voglio più perdere tempo a piangere. Non voglio chiudere gli occhi neanche un secondo. Voglio tenerli spalancati fino in fondo. Noi due sinceri sogni in orbita, necessari come l'aria. Anche se lontani sempre complici, noi siamo in due. Le cose che dividono non saranno dei chilometri. Di ogni viaggio è certo che ritornerò da te. Da te. Da te. Da te. E questa volta sono solo e non ci sei tu. Ma tu rimani parte di me, io parte di te. E quella volta che ritorno non ci sei più. Ma io rimango parte di te, tu parte di me. Tienimi stretto alle tue mani, non voglio perdermi. Tra queste strade immense non voglio arrendermi più. Quanta voglia di fare a pugni con i vetri rotti. Quanta voglia di dare fuoco a questi panni sporchi. Ma la rabbia mi rende forte lungo questa strada. Ne voglio ancora di più, ne voglio ancora. Perché non voglio risposte, mi basta vivere. Ne voglio ancora di più, ne voglio ancora. Perché il tuo cuore mi ha insegnato a combattere. Perché non voglio più perdere tempo a piangere. Non voglio chiudere gli occhi neanche un secondo. Voglio tenerli spalancati fino in fondo. Noi due sinceri sogni in orbita, necessari come l'aria. Anche se lontani sempre complici, noi siamo in due. Le cose che dividono non saranno dei chilometri. Di ogni viaggio è certo che ritornerò.